Tranquillo. Senti un po' il buco. Vabbè. Sarà la batteria che scarica, boh. La batteria scarica sarà anche, boh, non so cosa dirti. Sono con quello della camera da letto, sono, ti sto ascoltando con quello, capito? Cioè, che c'è la cassa esterna, cioè, e si sente tutto. Vabbè, non ha importanza. Ok. Ma può darsi che sia quello, troppo sensibile, non lo so. Per cui, perché non me l'hanno mai detto che c'è alternata. Aspetta che... Stavo bevendo un po' d'acqua adesso. Sono anche sudato, porca miseria. Stavo lavorando su. E addirittura, cosa stai facendo di tanto, tanto importante? Stavo tagliando uno. Presente ce l'hai cosa fare che si stendono i panni di plastica, si era rotto, l'abbiamo comprato nuovo e quando l'ho fatto tutto a pezzettini per metterlo nella busta della plastica in modo che stanotte la posso mettere fuori, così passa lo spazzino e se la prende, perché stanotte c'è la parte che è l'umido da conferire, capito? Ho capito ora. Capisce, ma fai da di... Ah, stai fermo, monello! Sta giocando, sta facendo un po'. A di guglio, mio friend. Adesso più diventa grande e più diventa birbante, perché se sai, i bambini sono così. Ma è meglio che siano così svegli, così almeno non nascono, cioè non crescono addormentati. Meglio che siano così vivaci. A me i bambini mi piacciono vivaci, in modo che diventano più intelligenti e tutto, la crescita. Sai che mi stanno telefonando? Ok. Attenzione, ci sei? Sì, ci sono qua. La mia cognata che tra un po' arriva. Che gli ho chiesto se importava l'acqua. Ho capito. Chi è che deve portare? Non ho capito. Mia cognata, gli ho chiesto se importava l'acqua, gli ho chiesto. Ho capito. E domani dovrò andare anch'io a comprare l'acqua, a fare il riponimento. Io quando vado ne compro sempre 15 confezioni. Per cui facciamo riponimento per un bel po'. E dopo quando si consuma faccio sempre così. Vado lì alla piazzetta, vado, perché lì è fornito l'acqua, siccome ne compro tre tipi, le compro l'acqua panna, poi compro l'acqua San Martino versata e poi compro la levia per cucinare, quella la usiamo solo esclusivamente per cucinare. Io ne prendo due casse per volta, perché purtroppo la macchina ancora non l'ho comprata, non ce l'ho. E quindi la patente ce l'ho, ma la macchina, se non ne avrei preso di più. Se avessi avuto la macchina avrei comprato di più. Però piano piano. Ma lo sai che da metà Sardegna in poi non c'è più la San Martino. Usano la Santa Lucia, usano. Cioè se tu già vai a Olbia non la trovi quasi più. Magari la trovi nel supermercato e boh. A Cagliari proprio non va. Si vede che... Perché è cara, la più cara che c'è. Dell'acqua normale, là. Poi naturalmente ci sono delle confezioni che costano anche di più. Però diciamo quella che fa digerire meglio, dai, diciamo. Questa mattina perché è pesante. Comunque anche la Sant'Anna, c'è anche la Sant'Anna pesante. Quando non trovo la San Martino prendo la Sant'Anna. E invece io mi è capitato tanti posti di mangiare anche al ristorante, usano la Santa Lucia, anche quella in vetro. E sono andato a Cabras, c'è Santa Lucia, c'è da giù in poi, già da Giave, c'è già da lì ce li hanno tutte e due, ce li hanno, però più prevalenza con la Santa Lucia, più vai e più c'è la Santa Lucia, cioè. In alcuni paesi proprio non esiste, cioè Santa Lucia è cioè, lo so perché io ho girato molto, quindi ho visto questa differenza. Ok, sì, beh certo. No, io la San Martino noi la stiamo usando da almeno 50 anni. Da quando mi sono sposato la San Martino l'abbiamo sempre usata. Però siccome io non è sempre che bevo la San Martino, bevo anche la papanna, insomma alternata, un pochino alternata così, no? Per cui, mentre invece per cucinare prendo sempre Olevia, che la trovo lì alla piazzetta, oppure alla MD qua vicino a casa, c'è quercetta, costa 21 centesimi a bottiglia, costa per cui, costa poco, prima costava addirittura 17, però l'hanno aumentata da un po' di tempo, l'hanno aumentata e costa 21 centesimi. Alla bottiglia, quella la usiamo solo esclusivamente per cucinare. Poi è San Giorgio, mio, da dire che sia. Ah sì, lì qua la riempiono, me lo sto dicendo io. Ho capito. Vabbè, che una vale l'altra, comunque, stando a quello che dicono i dottori, perlomeno il dottore che l'aveva detto a me, dice la migliore in assoluto è la Sant'Anna, anche se non è a tutti che piace, perché ha un pochino di amaro, no? Leggerissimo, leggerissimo amaro, però una volta che ci fai abitudine, ci fai bocca, no? Non lo senti più nemmeno quell'amarognolo che ha. Io l'ho bevuta in montagna anche da poco, c'ha tutto un altro gusto di chissà della bulla, c'ha tutto un altro gusto, c'ha. Eh beh certo, direttamente dalla fonte in montagna, eh beh quello sì, ma io l'avevo provata qua dal tempio, che anche quella è in montagna praticamente, ma sentivo che c'era troppo calcare, no, non mi è piaciuta, è troppo pesante, capito? Una volta salendo dalla Fumosa ci siamo fermati lì a tempio, stavo andando a, cavolo, adesso non mi viene quel paese, ne ho visitato talmente tanti, a Luogo Santo, e ci siamo fermati lì, c'era una fonte naturale, questa acqua fresca, buona, lì nella strada. Luogo Santo, sì, lo conosco quel paese, anche perché quando ero giovanotto, diciamo, dai, avevo una ragazza che era di Luogo Santo, che poi ancora oggi vive lì sempre a Luogo Santo, anzi prima ha vissuto a Sassari per un po' di anni, e poi se n'è ritornata a Luogo Santo perché si era sposata, era diventata vedova, e allora se n'è ritornata al suo paese. Una bella ragazza era, e penso che sia ancora una bella donna. Adesso io sono un po' di anni senza vederla più, però quando era giovane, quando era con me, era veramente una bella ragazza. Cappa, purtroppo sono le cose. E ci sono stato io lì, avevo fatto in Berta sulla volta, un po' di tempo fa. Cavolo, ma ne ho visitato di paesi, madonna. A ricordo, ogni tanto no. Ogni tanto me ne ricordo qualche uno. Ho stato in molti paesi. Certo, se segui questi gruppi musicali, quelli vanno dappertutto, in tutta la Sardegna, e dunque se lavori per loro è chiaro che giri e altro che se giri, io lo credo. E Bertas, sono bravi, mi sono sempre piaciuti. Anzi, devo dire che al momento sono addirittura meglio di Tazenda. I Tazenda sono stati bravissimi ed erano il numero uno, ma quando c'era Andrea Parogli. Ma adesso no, non è più così. Per me adesso i Bertas sono superiori come gruppo musicale. Hanno dei giovani che sono davvero, hanno dei giovani bravissimi, suonano davvero. Ne hanno uno che si chiama Gabriele Cao, che cavolo, la chitarra è un numero uno suonando, bravissimo. Sì, ma io lo so, i Bertas sono sempre stati bravi, sempre. Io li ho conosciuti da quando hanno fatto il complesso, quando hanno piazzato il complesso. Addirittura sto parlando ai tempi di Antonio, aspetta, come si chiama il batterista, che non mi ricordo più, poi è diventato un batterista, invece il cantante che è morto, quello da poco, un paio d'anni è morto, dai. Anche quello era bravo come batterista, ma quello faceva anche il cantante, oltretutto. Io sono Mario Chessa e il Zoppava, quelli che cantano. E poi ci sono le coriste, cosa come si dice? Ma insomma, i due, il bassista, il chitarrista e il batterista, bravissimo. Il batterista, quando c'era con il mio amico, quando proprio sono nati, quando è nato il gruppo, che c'era Antonio Osai, un tipo bassotto, credo che facesse il fabbro di mestiere, ma era eccezionale, veramente un grandissimo batterista. Poi, siccome quando si aveva preso il vizio del bicchiere, si aveva preso, e allora ha dovuto abbandonare il gruppo, ed era subentrato quell'altro, quello del ragazzo dai capelli verdi. Una volta tu non l'hai conosciuto, ma io sì. Però aspetta, che non mi ricordo come si chiama, Arcipicchia, non me lo ricordo, dai, ma già te lo dico appena che viene in mente. Sono batterista di Fabrizio Lai, bravissimo ragazzo, tanti anni c'è nel gruppo che suona con loro. Sì, questo di adesso, sì, ma io sto parlando di tanti anni fa, no? C'era questo batterista che poi cantava anche, guarda che è morto un paio d'anni fa, è morto, che abitava qui alle Punte, abitava adesso non mi ricordo come si chiama, non mi viene il nome, non mi ricordo come si chiama, cantava anche. Sono i caloro, già si rammentano, da Rusane. E poi ci sono le tre coriste che hanno una voce bellissima. Certo, io lo so che sono bravi. E quello che lavora in banca ancora c'è, e con loro, quello che lavora in banca, che suonava la chitarra, suonava ed era impiegato in banca, ancora c'è con loro. Topava? Mi sembra che sia lui, sì. Guarda che lavorava alla Banca Popolare. Alla Banca Popolare lavora. Questo papà c'è, ma anche Mario Chessa, quello che suona le tastiere. Sì, anche quello bravissimo ugualmente. Se lo sto dicendo, per me è Bertas, al momento, oggi come oggi, è il gruppo migliore che c'è in Sardegna, per conto mio. I Casenda sono bravi, tutto quello che vuoi, però da quando è morto purtroppo Andrea Parodi, hanno perso tantissimo, tanto. Per cui i Bertas sono sempre sulla cresta dell'onda, per me sono i più bravi. No, anche l'azienda hanno fatto molte serate, è successo un incidente e sono bloccati, hanno fatto tante serate. Lo so che ne hanno fatto tanti, figurati, lui dice a me, guarda che l'azienda venivano qui a casa mia insieme a mio cognato, perché mio cognato faceva parte di Tazenda, faceva parte, ha fatto anche la tournée insieme a Gianni Morandi in tutta l'Europa, per cui no, ma sto parlando di anni fa, li conosco tutti, io i Tazenda li conosco uno per uno da quando sono nati, erano piccoli, giovanotti, ragazzini praticamente, tipo Antonio Pudiche, Andrea Pudiche, i fratelli, che adesso credo che siano anche in un altro gruppo, non so cosa si hanno piazzato loro. Ma un attimo che mi ha suonato il campanello, c'è Gigi Camenda, c'è cosa, Gino Marielle, ascolta, mi ha suonato il campanello. Sì. Siamo rotto da mezz'ora.